solo con la 10 cambio. Sì, avanti. Ah, ok, buonasera. Buonasera amico e saluto l'ambasciatore. Ok, stazione Uranio qua, Modulante K, a te cambio con la buonasera. E allora, ciao Uranio, ben sentito, cordialità, la stazione doppio room, QTH Sassari, avanti. Bene, ben sentito signor Gianni, ben sentito, tanto saluto qua dalla collina, allora è bene riascoltato, ok, Roger, mi dovete dare un foto io, come sto arrivando lì a Sierra K, a te cambio. K, Uranio, dai, ti devo lasciare, ti ho risposto perché ti ho sentito, devo lasciare che sto uscendo, vai. Ci sentiamo, buona serata e tante cose belle. Ok Gianni, ciao, allora ci sentiamo, dai, con il momento di domenica e buona escursione, ciao, ci sentiamo. Uranio. Ehi, vieni avanti, l'amico, vieni avanti, con la buona sera. E poi che dice che non lo conosci a pochino a 600, vai da bravo. Cosa, non ho capito. Perché non lo dici la verità che sei tu pochino, che vai dire non lo conosci, sei tu per forza. Ah, se lo dici tu magari può anche essere, non lo so. Può anche essere, se lo dici tu magari può anche essere, chi lo sa, Puro Meneusi, lo sei solo tu, è brutto. Ah, io ne conosco anche un altro che è risposato anche a Ussi, cosa te ne sembra? Ma io non sono di Ussi innanzitutto. Cosa, non sei di Ussi? No. Ah, però abiti a Ussi. Cosa? Però abiti a Ussi, ne ho detto. Neanche a Ussi. Io te l'ho detto apposta poco fa che ero di Ussi, per essere tu mi c'è la verità, ma non me l'hai detta. Ah, non te l'ho detta. Vabbè, se lo dici tu e non te l'ho detto, allora, non lo so, ma tu lo conosci a questo qua. Io, l'importante è, mi auguro che tu quelle cose non le fai più. Ah, tu ti auguri che io non le faccia più. Ma tu potrebbe essere, sono io o chi può essere, non lo so. Sei tu pochino, vada bravo, che il pisello ti rimane in tasca. Ah, sono io. Vabbè, come ti ho detto la prima, se lo dici tu allora può darsi anche che sia così, può anche darsi, ma non è detto che sia. Vai da bravo, pochino! Vai da bravo! Ok, ti devono fare da bravi come gli altri, non quello lì che dici tu. Dai, non tirare per terra in tavola, che tu è fatto. Io ti ricordo dal volo poco fa, adesso c'è Uranio, grazie da Ussi, dopo fa. Dato che mi chiamavo Cerattanco, mi chiamavo da Usini e tu hai continuato a ignorare quando hai tolto la fuochino. E tu hai ignorato sempre, continua a ignorare. Fai da bravo a fuochino e pum e pum. Ehi, ti ho detto che dovevano fare gli altri da bravo. Ok, quello lì già è bravo. Sì, quando si tiene la pistola a bocca, sì. i maschi, sai come sono? I maschi, sono sempre maschi. Ma... I maschi sono maschi, ma no, depravati, la pochezza della zona pura. Tutti ce l'abbiamo la pucella qui, eh? Dipende, ci sono quelli che volano, ci sono quelli che non volano. Tu se vola, vuol dire che vola a tutto. Ci sono strani uccelli in giro, strani uccelli ci sono. C'è qualcuno? Attento 10, c'è qualcuno? Oh Robè, ci sei? Attenzione 10. Oh Robè, Roberto. Attento 10, c'è qualcuno? Hola. Oh Robè. E beh Riccardo. Ciao. Oh, ti sentivo saltando al 30. No, oh, ero al 35 adesso. Ah, eri al 35. Forse 31 era, stavo, c'era un segnale strano, non so da cosa era, ho provato a chiamare. Ah, ecco, perché era impossibile che stavi splatterando dal 30 al 10. Poi mi sono spostato, oh vabbè, ero anche in altri canali, ho fatto, prima ero sul 10, poi sono andato sull'11, 12, forse mi ha sentito quel pezzettino, ho fatto due o tre canali. Ho capito. No, mica sto usando potenza, io non ne uso potenza, per questo è abbastanza pulito come missione. Beh, rientrato sì. Un attimo, Roberto, a dopo, dai. Che avanti. Ehi, ci sono io. Ciao, chi sei? Antu. Ciao Antu. No, perché c'è un altro che sta assomigliante alla tua voce, Emanuele. Ci avete. Ginko, ci avete lo stesso segnale più o meno. Trasmettete dalla stessa zona. Ehi, nipote o figliocchio di Gozo, di Tonino. No, io l'ho sentito da poco, non lo conoscevo. È nella tua zona comunque, Lima Delta, non so esattamente dove si trovi, però dovrebbe essere la tua zona. Ne ha fatto di caldo oggi, Antua? No, dovevo uscire ieri in campo e stare fuori anche oggi, ma non ne avevo voglia. Poi stamattina ero un po' stanco, ho detto, ma rimango a casa. Io sono uscito al fresco a Platamona stasera. C'era un po' di arietta, dai, già si respirava, però il mare era brutto. Sono andato a trovare amici. No, è da un po' che non ci vado, da, anche se c'è mio fratello, miei cognati, un sacco di parenti e di amici, c'ho di lì, ci scendo come che sia a casa mia, dai, sono sempre in Kiwi quando non ho niente da fare, ma normalmente esco sempre col camper. E chi ci va? Dalla casa mia c'è la padrona di casa e poi la figlia è rimasta lì, ma non mi interessa più tanto ormai. No, già mi sono divertito, già è bello, ci ho fatto tutta l'infanzia, da bambini mia zia c'era lo stesso a casa, però poi alla fine quando c'è il campo ci dice che cambiamo aria. Vicino? No, dove c'è la piazzetta, dove c'è il presidio militare, hai visto che c'è il baretto di lì? Il villaggio della torretta, quello che c'è di lì. No, proprio il villaggio della torretta, sono 27 famiglie di lì, siamo tutti amici, quasi tutti ci conosciamo da quando siamo nati. Ma ti dico, adesso in questi ultimi anni ha brutto di meno, ma una decina anni fa sì che si sentiva, cacchio. Adesso la gente poi si è lamentata e stanno abbassando anche i volumi, perché prima quando c'era il Lido di Sassari, cacca ogni rumore, ma la notte, il sabato notte soprattutto, tutta la settimana, ma soprattutto il sabato notte sino alle 5 del mattino, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Sì, lo so, la ci vanno, ragazzi, poi ci sono, mia figlia vanno sempre in Kiwi. Stavo dicendo, ma voi le bombole le consegnate voi al gommista a fianco a me? E l'altro giorno è venuto, ma infatti la moto, ma non le consegni solo tu, chi c'è oltre a te che consegna le bombole? Non tu, insieme a te lavora qualche altra persona. No, ho capito, le porti tu oppure? Allora lui era venuto, perché la moto era la tua, quella con l'antennina, e l'ha consegnata per il camper, una bombola da 10, la settimana scorsa. No, non proprio lì, il camper era in officina mia, a fianco a me, alla porta mia, ed è venuto, la moto mi sembrava la tua, con l'antenna, quella che venivi, che venivate, che ti ho visto un po' di volte, poi a meno che non ci abbia qualche altro bombolaio. Boh, non lo so. Infatti ha detto, mi vedeva se Antonio. Poi ho guardato, no, ed era un altro. Ho detto, boh, forse ho detto qualcuno che lavora insieme a lui. Quanti anni può avere il principale tuo? Ah, non ci avete più il motocarro. A quelli di vettura. Oh, ero convinto che fosse la tua quella, ma voi un periodo ce l'avevate il motocarro, non è così? Come fate, ho detto San Antonio, come fate, ho detto, stavo guardando poi e vedo una Fruddippo, ho detto non lo conosco. E già me lo ricordo, ti avevo visto un po' di volte, a tuo padre lo stesso, molte volte veniva vicino a me a consegnare le bombole. E adesso ci avete il Fiat Strada, quello bianco. E già l'ho visto qualche volta. E io quando sono venuto un paio di volte c'eri tu a prendere la bombola, e poi quando per il catrame mi davate, diciamo, il propano, e c'era anche un altro tipo, però tuo padre non l'avevo trovato, ma non era grande grande, ma non mi ricordo esattamente, mi sembra più giovane di tuo padre sicuramente, ma Radita Marugiu si chiama, ma mi accorgo via Avandoria che non c'è più a fianco a Carbone, ma tu un periodo ci hai lavorato anche tu di lì a Armando Diaz, perché c'era un periodo che apriva in due pozzi, così o sbaglio? Magari ti sei dei venditori di bombole a Sassari, io ne conosco almeno 3 o 4 sicuri, tanti me ne so, io conosco bene, anche se non c'era più, Pistoruzzi, Angelino, il figlio che gioca nella squadra nostra, che lui era uno di quelli lo stesso che da una vita faceva, poi quella che doveva essere mobili Iras, quindi il circuito dei servuti duri, che anche gli amici mi quello, che anche poi alla fine mi costava 10.000 lire in più, ancora in lire, 10.000 lire in più degli altri mi costava la bomba, siamo stati anni e anni per la bomba, una volta a buio ho detto non ce l'aveva, sono andato a prendere da un'altra parte, mi sembra proprio da voi, cacchio 10.000 lire in meno, mica sono ben 10.000, siamo stati anni che noi, perché era amico, Ghito, Ghidato, a dargli una mano, e poi ci siamo resi conto, ci ha preso in giro, ci ha fregato un bel di dinaro. Poi ha avuto situazioni brutte, infatti c'era il figlio che giocava con noi per dargli una mano, poi è stato inquilino di mio padre, guarda, non racconto particolari, lasciamo perdere, che poi alla fine manco mai se ne è andato, si è riuscito a mandarlo via, ha fatto un sacco di storie, poi ha avuto problemi con la moglie, poi roba di gioco. Non so, lavorava bene all'inizio, era al monte, no, dietro la via del viadotto, come si chiama? Lo so, lavorava bene, e poi ha fatto il furbacchione, cacchio, le bombole, per dire, gli altri le vendevano 19 euro e 29, non 10 euro, 10.000 lire, 10 euro, perché era già la bombola, costava 19 e lui 29. Purtroppo ho avuto anche problemi familiari, lui poi lo vedo, sembra un barbone adesso, se lo vedi, ok. Poi c'era quello Giuda Le Conce che lavorava qualcosina, ho visto, ma voi lavoravate, non so se siete più grossi, ma penso che adesso siete tra i più grossi, avate il breve. C'è anche Antonio, aspetti, rilancia Antonio e poi ti do il controllo. Avanti Antonio per Claudio. Sì, vai Claudio. Sta andando benissimo, 9 più 15 il segnale, radio 5, c'è leggermissimo rumore di alternata a sonto, però non è gravissimo, dai, ti sento bene. Sì, ti ascolto bene, un pochettino di ronzio sotto, ma non è troppo persistente, nel senso non è fastidioso. Ok, Antonio, come l'ascolti di radio invece? Hai detto Santiago 6 di segnale radio. Ma portatile intendi veicolare o palmare, Claudio? Da 9.15 sei sceso un pochettino più di 9.10, diciamo, facendo una cosa empirica, per le 9.15 sarei sceso a 9.12, anche se è relativo a questo discorso, non ho una scala così precisa. Allora, 38 quello che c'ha i numeri del canale rossi è... Si sa che è partito tutto, ci sei ancora Claudio? Però anche io ne ho due, ho due Handicom 50S, sempre della Intec, che ho iniziato a parlare con lui, che hanno l'antennino in gomma, e poi ho l'Alan 38, neanche uno Alan 38 io, adesso sto facendo fesserie rosso era l'altro baracchino, sono verdi i numeri. No, no, la radio è perfetta, chiara e pulita. Avanti, alto. Ah, vabbè, ciao Robe, ciao Antonio, ciao Chiara Genito, vai Robe. Ciao Emanuele, ben sentito. Ci ha messo lo stesso segnale con Antonio, vi assomigliate anche come modulazione, siete dalla stessa posizione, per cui di più per fare confusione non ce n'è. Ok, avanti Antonio, Emanuele per salutare a Claudio più da Ruggini. Ciao Claudio, ben sentito, dai, a te Claudio. Infatti sono semplicissimi, però funzionano bene. Guarda, ce l'ho anche io, l'ho utilizzato per un mesetto abbondante e ti posso dire di radio usciva bene, pulito, non ha niente, nessuno strumento, nulla, c'ha solo lo squelch e boh, il cambio canale. Prova per curiosità, togli l'alfa lima e manda, esci, è una potenza senza alfa lima. Non intendo. No, 9 più 5, sì, no, la radio è sempre uguale, non è cambiato niente da parte mia, solo il segnale si alza un pochettino da 9,5 e passa a 9,15 quando attacchi. A te, vediamo spesso Emanuele, così ti ascolta ancora. L'ascolta Emanuele così. No, non lo sento, sento che sto parlando, ma non lo sento cosa sta dicendo, vabbè. Allora tu, mi scusa Antonio, Claudio, rimetti la stufetta così vediamo se ti ascolta Emanuele. Adesso sì. Adesso sono un bel tempo che non ci passo, al chilometro c'era una Mantova che si vedeva le luci gialle, ancora c'è. Una Mantova, le luci gialle, quella lì è una Mantova senza radiale, si dice. Non ci ho più fatto caso, ma anni fa c'era una Mantova di lì, sempre bella dritta, adesso non ci sono più radiali perché... Ma dove stai dicendo, Robert? Ma le luci gialle, andando verso il sorso, a sinistra, c'era un palazzone, c'era questa Mantova bella alta. Ah, sì, ma non modula più, già da tanto che non modula. Che era quello lì? Non me lo ricordo. Quello lì, non so, si è trasferito, che lui è in casa della madre, prima abitava dalla madre. Ma ti parlo di, c'era una ventina d'anni fa che c'era una quarantena lì. Lo so, c'era da tanto tempo. Ok, mi sembra sentito qualcuno che vuole entrare. Avanti che vuole entrare sul 10. C'era Riccardo, ha detto 5 minuti, arrivo subito. Forse sta dando una mano al padre. Ok, riprendi Claudio, a te il mic. Riccardino si è allontanato, c'era un 20 minuti fa, perché anche io quando l'ho aperto sono rientrato, che sono state le 8 e mezza così, e non c'era nessuno, ho fatto un fruscio e mi ha risposto Riccardino, ha detto aspetta, vengo subito tra 5 minuti, poi nel frattempo è entrato coso Antonio Bombolo che ha il segnale uguale a Emanuele, ci confondiamo tantissimo, la voce più o meno simile, infatti ho detto chi sei perché non ero sicuro che era Antonio, e poi è entrato Emanuele e poi sei entrato tu. Aspetta, scusate un attimino di bianco, un secondino, arrivo su. Meglia, oh, vai. Infatti non ho più sentito neanche io. Comunque bassa la modulazione, popolo. Bassa la mia. Anche qua normale, tutto normale, popolo. Ma lo già vai, che radio stai usando? 500 power. Se lo vedo sì, sicuramente. Ma non sarebbe la gara. Prima ti ascoltavo con la gara, mi sembra. Da base. Perché mi ricordo che molto avevo, mi ricordo che non c'avevi la Galaxy. Io sto usando la Galaxy adesso. Sono rientrato. Vai, ah, c'è qualcuno sotto, quando stavate parlando vi hanno sovramodulato. Chi è che su 10 che vuole entrare? Sì, ciao Angelo, ben sentito. Addirittura sembravi qua vicino. E il tuo segnale è di 8, la radio è di 5. QSL, confermi? Angelo da Siracusa. Attenzione Siracusa, se copi la città di Sassari. No, no, tu sei qua a Santiago 9, questo passaggio, c'è un radio 5, è super forte, anche se poi c'è del QSB, ogni tanto ti abbassi 6, 5, 7, però questo passaggio è di 9 con una radio 5 stereo. Ti rilancio l'amico più lontano di tutti qua, da Muros, un paese vicino a Sassari, Claudio, te lo rilancio, avanti per Angelo da Siracusa, Claudio. No, sta uscendo. Attento Claudio, c'è qualche problema tu, sei sceso a 7 di segnale, è radio incomprensibile. O cambi radio, stai attento, c'è qualche problemino. Vediamo se c'è ancora Siracusa avanti. Purtroppo ho visto, ti ascolto Santiago 7, radio 4-5, purtroppo il QSB è abbastanza importante. Ti rilancio qua l'amico prima Antonio Bombolo e poi Emanuele Ginco. Vai Antonio per l'amico da Siracusa. Hai copiato? Ok, vediamo un po', ti rilancio Emanuele Ginco, vediamo un po', io ti ho ascoltato in tutto il passaggio. Avanti Emanuele per l'amico di Siracusa. Sei basso, Antu, Claudio, aspetta, facciamo riprendere Emanuele, avanti Emanuele. Ehi, ok, dai, ciao Roberto di Siracusa, ben sentito. Va bene, dai, a te ancora Roberto di Siracusa, se mi ascolti. Ti ha ascoltato sia Antonio che Emanuele, a me mi ascolti discretamente invece. Qua Roberto Quadrato, nominativo, sempre città di Sassari, l'altezza stiamo parlando di 250 metri, antenna 1 a 5 ottavi, ti rimando il mic, avanti a te Roberto da Siracusa. Però se ne sta andando adesso, il tuo segnale si è sceso a 3-4, l'amico Roberto da Siracusa. Mentre qua l'amico Claudio, c'è qualche problemino Claudio, si è sceso tantissimo di segnale. Ci sei ancora Claudio, avanti a te il mic. Infatti non me ne sono accorto perché è sceso tanto di segnale. No, stavo parlando di Claudio da Muros, è sceso a 7, da 9-10. Avanti Claudio. Roberto Siracusa, a te il mic se ci sei ancora, avanti. Ok, dai, visto che sta, prima che ti perdiamo, ti mando i saluti, piacere averti ascoltato, speriamo situazioni migliori di risentirci. 7351 da parte mia, ti rilancio l'amico prima Ginko e poi Antonio Momolo. Vai Ginko per l'amico Roberto da Siracusa. Sì, ti saluto, vabbè. Buon quadretti con tutto, dai. Ce la riascoltiamo dalla Sardegna. Ciao e vai. A te Momolo. Salutori qui dalla città di Sassari, dalla Sardegna. Ce la risentiamo alle prossimine, capa. Hai fatto ridere Emanuele, ciao e vai. Emanuele, come ti sta arrivando adesso? Su da tutti, senza turbazione. Aspetta, volevo vedere se Claudio ha fatto danno, perché quando vedo questi blocchi di segnali da 9.15 a 7 è successo qualcosa. Ci sei Claudio? Lui? No, no, è con un palmare lui, solo che c'aveva la stufetta attaccata, però senza stufetta arrivava a 9.5, attaccato 9.15. Poi di colpo c'è la 7 adesso, tutto saturo, boh, chissà cosa è successo. Ma che è senza alimentatore, sta andando con le batterie dell'apparato, così è possibile che siano cadute di brutto la cosa, l'energia. Mi accetto, Ehi, hai Torino che fine ha fatto Emanuele? Non lo so. Hai mandato la fotografia, non ci credeva che eri a casa tua. Infatti. Cos'è questa, Antu? È il microfono. Il suo originale. Ehi, ma c'è un leggero eco sotto, gli hai messo... Prova a toglierlo del tutto. Se l'hai aumentato così. Sì, è molto meglio, molto più pulita la radio. Tanto così sei perfetto, va benissimo. Quando metti quell'eco ti dà un leggero effetto camera, riverbero, però ti sporca un po' la modulazione. Magari a lunghe distanze va bene, ma qua vicino non c'è bisogno. Sì, ciao Roberto Charlie Bravo, ben sentito, saluti dalla Sardegna all'altra isola gemella, alla Sicilia. Ciao ciao, alle prossime Mari, se conciderà ci risentiremo e sarà un piacere ascoltarti. Ciao ciao. Ecco. Avanti il break. Ciao Roberto, Fabrizio. Ehi, ciao Fabri, ben sentito, c'è in compagnia di Antonio Momolo, Emanuele Ginko, c'era Claudio se non ha fatto danni da muro, e poi da un momento all'altro può entrare Riccardino che ha detto mi assento, poi 5 minuti però non è rientrato. Avanti a te il mic, di nuovo Fabrizio. Sì, ciao Robert, ben sentito e un saluto a te. Problemi all'antenna, credo. Io sono entrato per un piccolo cuticci per te, Robert, perché poi spengo tutto, sto facendo due cose e faccio altro. L'ho sentito a Riccardino poco fa, io sto usando questa radio, quella che ho... Ma perché ti blocchi, Fabri? Qualche problema? Fabri, ti manca di colpo il segnale. Sì, no, vedi, volevo fare motivo, non so cosa è successo. Stavo facendo un QTC, ma mi pare che lo rimando. No. Non lo so perché, ho toccato qualcosa qua. La rimango un po', provo già. No, volevo, parlato con Riccardino, volevo lasciargli questa radio per capire come funziona il 440 in confronto alla sua e niente, almeno si faceva un'idea e poi potrà decidere cosa fare se vuoi che ne parlo di persona. Sì, ci mancherebbe, ma anche il microfono li lasci? No, il microfono ce l'ho, adesso non so se ce la faccio domani o dopo, in questi giorni è lì, te lo porto e poi vediamo. Però strano che cerca, perché è mancata la potenza? Una cosa stranissima. Ho toccato qualcosa, ma non il microfono, no, perché se schiacci potrebbe essere, non so perché. L'alimentatore è tutto a posto, magari è entrato in protezione alimentatore, qualche picco che ti sei di assorbimento. No, l'ho fatto il telefono, la sto usando dall'altro giorno, mi avete sentito, la sto utilizzando perché ho detto allora Riccardino o qualcuno che la usava una ventina di giorni, così la teneva collegamenti in 20 metri, ho avuto dei buoni rapporti di segnale e quindi la volevo volare, che ne so, qualche porcarino così si prova un attimino e capisce la differenza, no? Col fatto che c'è tutti i canali, tutte le cose. E così poi quando la tiene un paio di settimane, che lui la usa parecchio, se c'è qualche difetto occulto esce fuori, per questo l'ho messa a posto, io ho già un po' di giorni che ce l'ho sul banco, che la sto usando sia in altre bande che qua, e non ha dato mai nessun problema. E quindi per essere sicuri bisogna qualcuno che la usi veramente tutto il giorno, capito? E ho una domanda, e in che posizione ce l'hai il carrier, Fabrizio? Basso, adesso per questo lo sai che c'è, ce l'ho 2.5, infatti sta uscendo, mi dà 10 e gli altri tutti di picco. Ma perché il segnale sei 9 più 50 e quindi sei a 2.5 tu, neanche a 3. Ti mando un video per farti capire, vai. Riprendi, fai girare, ti mando un video, poi rientro e faccio un passaggio. Ok, va bene. Ok, vai, chi c'è? Antonio, tocca a te o a Emanuele? Avanti Antonio. Va bene, uno dei due, tanto eravate più o meno allo stesso livello, un paio di minuti con Fabrizio abbiamo parlato, forse neanche. Avanti tu Emanuele. Sente gente sotto fischiando, boh, forse propagazione. Ok, comunque Siracusa è arrivato, l'unico che c'era, stranamente, non capisco, forse era l'unico civile pirata di Siracusa. Come ti arriva a te con la radio, Anto? Ecco. Avanti di nuovo. Scusa, facciamo questa prova, adesso te la faccio. Allora, praticamente, vedi, io ce l'ho più o meno posizionato in questa maniera, sia il Mickey Game che il calcolante, il Mickey Game si può sollevare, non so. Adesso guarda, ti mando il video, adesso sono 15 watt, vedi, sul modulato fa picchi di... fa picchi anche di 100, quindi se non arriva a picchi di 100 non fa problemi, è per quello. Poi l'altro non lo so, devo controllare. Comunque questo è il video, adesso te lo mando. Ah sì, da 9.40 a 9.50, no, il segnale è molto molto forte. Stavo dicendo, Anto, scusa che ti ho chiesto, però a voi ha parlato Fabrizio. Avanti, il segnale mio quanto è dalle tue parti? Questo cosa metto? Che baracchino è? Preia. Sì, ho capito, però non ho capito il modello. Ma cos'è una stazione base? Non lo conosco. No, ti ascolto benissimo, pulito, senza difetti. Tanto stavo guardando il video di Fabrizio. Fabrizio, sì. Sì, ci sono, forse il micro, ci sono. Allora, ho visto che c'è dei picchi allucinanti, da 5, da, adesso guardando la scala, da 5 arrivavi sino a cosa? A 9.40 come picchi di modulazione. Va bene, no, ti piace. Certo, una bomba, no, il mio non spinge così tanto. Vabbè, io sono, come posizione sono un po' più alto di te, dovrebbe darne, mi pensavo una quindicina, però i picchi non ce li ho così alti io di modulazione. Vabbè che sono anche molto lontano dal microfono, magari se mi avvicino sale un pochettino di più. Il Mickey Gain ce l'ha uguale al mio, a 1, però quello c'ha una bella, come si chiama, dinamica come spinta. Io ti arrivo a 9.40, ho visto, tu sei anche di più, Fabri, 9.40 con i picchi arrivi a 9.50. Sì, però ogni tanto, no, ancora glielo do a Riccardino, voglio fare un altro controllo, glielo presto più avanti, là. Ma è impressionante, ma come mai spinge così tanto? Ma c'è qualche operazione particolare che hai fatto tu, Fabri? Sull'elici un pochettino, due giri, boh, non lo so, fatto un po' come faccio io, no, questa, ma anche l'altra, Adesso provo un'altra, vabbè, ti mando un video. No, è impressionante, cioè, come sale da 5, tu vedi, cioè la posizione è 2,5, diciamo 3, da 3 di carrier e riesce a salire da 5, diciamo, adesso guardando la scala che c'è del riferimento dei DB, diciamo, da 5 arrivi a 40, cavolo, è un'escursione eccezionale, io non ci arriverò mai una cosa del genere. No, è giusto quello rotato, quello strumento è giusto, a 10 a 700, è bello quello, perché stata, lo vedi, tu lo metti a 10 e tu rimani sui 80, 90, 100. No, è una bestia, molto, non avevo mai notato un apparecchio che spinge così tanto, sinceramente, perché io per avere una 15 devo salire a 4 come posizione, vabbè, questo è allineato, ma l'avevi fatto tu, tra l'altro, questo qui, c'ha qualche anno, dai, magari qualche cosa vorrà sistemata, però il tuo è molto più prestante, diciamo, non so se dipende dai finali, ma hai sostituito dei finali? No, dipende da come stai l'LC, il processore, se direi più processore, stanno spingendo più il processore, addirittura ho dovuto anche abbassare, sono quattro fesserie, la fai in preferenza, io tolgo il processore, anche se senza processore per esempio mica sta spingendo così, invece col processore tu la vedi che sale in quella maniera, devi fare accorgimenti, no? E ci vuole molto. Cioè, il processore sei 9,40, col processore arrivi a 9,50, però la radio è potente, cacchio, mi riprova di nuovo senza processore. Allora, qui sono col processore, qui senza processore, vedi, infatti lei adesso sta andando 30, non di più, come metto il processore inizia a spingere in quella maniera. Spinge, però devo dire, per essere un po' pignolo, la radio è molto più chiara senza il processore, è buona anche col processore, però senza sarà più naturale la modulazione. Ma dimmi una cosa, ma tu quando fai queste prove, queste modifiche, lo guardi anche a cosa, con l'analizzatore di spettro, se stai creando delle armoniche, aumento di armoniche o di scudie, o lo dai per scontato? Se faccio quella taratura metto anche l'analizzatore di spettro, dipende da cosa sto riallineando, capito? Dipende, però poi questi apparecchi dipende da cosa devi allineare o roba. Questa parte qua va bene, problemi non me ne ha mai dato, non so, lo sto provando, certo, questo piccolo coso che ho visto non vorrei, adesso lo sto provando, sembra che stia andando bene, e io ho fatto questi apparecchi, il mio problema di questi apparecchi è che dopo hanno troppi anni, capito, vanno bene, ma poi ogni tanto li devi un attimino accarezzare. Sì, ok, vediamo se c'è ancora Antonio, avanti Antonio e poi Emanuele, avanti a te Antonio. È impressionante poi l'intensità del segnale che c'hai, e tu sei molto più lontano rispetto a Claudio e a Pompugno, ma c'hai il segnale loro, Fabri, cavolo, loro magari qualcuno sa di più quando spingono, però cacchio, ti sta arrivando che è una bomba qua. Ok, vediamo Emanuele se c'è ancora. E a te quando ti arriva a coso, Fabrizio, Antu? Addirittura c'è la giocata, pensavo arrivasse più forte di lui, se ero convinto arrivasse più forte di me, Fabrizio. Questo è il mio segnale, guarda un attimino se vedi qualcosa, questo qua io il segnale, io ho un'antenna comunque molto alta in confronto alla maggior parte dei CB, perché la tengo sul traliccio e quindi probabilmente svetta ancora di più. A te che parlo io, 1, 2, 3, prova radio, questo è il canale 10, avanti Anto. Ma me lo immaginavo, Fabrizio c'ha dei picchi allucinanti qua di segnale, io non ce l'ho quei picchi, vabbè, non sto spingendo, io sto rimanendo pulito, diciamo, entro certi limiti, non lo tiro mai questo qua io. Ok, vediamo se nel frattempo è rientrato Emanuele, se no riprendi tu Fabrizio. Sì, no, non lo sento, aspetta, non lo sento, Emanuele non lo sento, vabbè, ascolta, mi sposto sul canale un po' più su che sto facendo una prova. Ok, noi siamo qua, dai, ancora per un pochettino, volevo capire se Capri gli è successo qualcosa, Claudio ci sei ancora? Cacca, a me dà un fastidio, peccato questo ragazzo, trova gli abbinamenti, tutto perfetto, buh, poi quando fa tocca qualcosa, buh, si sfascia. Ma diciamo adesso era con un palmare, probabilmente gli sono mancate le batterie, non lo so, perché quando lo metti a 1 watt ma riassorbe poco, ma se lo metti a piena potenza in 5 minuti ti butta a terra le batterie. Se c'è le batterie alle filo normali e non metti un alimentatore esterno, in 10 minuti te lo butti giù. Lo so per esperienza, perché ce l'ho uguale io col baracchino. Ok, vediamo se Emanuele è rientrato, se no facciamo una chiamata per Riccardino. Vai Emanuele, non c'è. Riccardino, ci sei? Con i fischi già arrivo a... Così dovrei pompare un po' di più col fischio. E altro qua. Però volevo vedere, guarda, no, aspetta, scusa un attimo, tanto. E adesso cosa è successo? Brecco. No, il segnale parla. Ok, grazie Emanuele, ciao a tutti. Ciao Roberto, ciao Emanuele. E Antu. Ah, scusate, Antonio, non si può dimenticare. Assomigliano sia come voce che come segnale, cacchio, Emanuele con Antonio, anche a me poco fa mi sono venuti i dubbi. Io sto uscendo. Va bene, Robert, scusa, mi sono assentato perché ero appena tornato e dovevo aiutarli a scaricare la cellula. No, ci sono rimasto male, guarda, proprio, guarda, la tristezza, Riccardo, guarda, proprio. Dai, non ti preoccupi, ci mancherebbe, dai, non immaginate, infatti. C'era anche Fabrizio, stava facendo delle prove con un altro apparato, arriva anche una bomba lui. Poi c'era Antonio che appena sentito, e c'era Emanuele, che non capisco se si è allontanato o cosa è successo. Ti facciamo un'altra chiamata, se no riprendi tu, Riccardo. Avanti Emanuele. Nulla, vai Riccardo e poi passerai il mic ad Antonio. Ok, sì, ne ho fatto anch'io due prove con Fabrizio, sta uscendo una bomba. Comunque, anch'io ti ho scambiato per Emanuele 5. Ma poi abitate vicini, va, vedete tutti e due la stessa posizione, e il segnale è quasi uguale, vi assomigliate anche le voci volte. E lui forse è risulta un po' più amplificata la voce di cosa, di Emanuele, la tua è un po' più chiara. Come radio si sente meglio? Abbiamo parlato in due, l'ho passato a Riccardino, Antu. Visto, t'ho schiacciata e non ti permettere più a parlarmi sopra, Riccardi. No, anche io ho detto, Antonio, di voce era più chiara rispetto a coso, a Emanuele, però già si capisce anche lui. Vai, Riccardi. Ho detto la stessa cosa. Emanuele, tu non vedi che si schiacci se vuoi. Non mi provocate, che se non mi faccio dare uno di quegli amplificatori grande quanto una parete. Ho mandato un video a Marco Scorpio, questo amplificatore di questo qua che stanno costruendo in Toscana da 50.000 watt. Dovete vedere cosa cavolo è, una cosa spaventosa. C'ha queste valvole, tre valvole da 15.000 collegate insieme, da c'ha il gruppo elettrogeno da 60.000 watt, da 60 kW non riesce a dare piena potenza. Raffreddamento al liquido è una cosa spaventosa. Roberto, questo amplificatore per chi è? Per Radio Maria? Radio Maria usa potenze più alte, ma tu devi vedere la costruzione di questo qua, hanno lavorato per 3 anni 3 radioamatori, è una cosa spaventosa. Cosa c'ha di sistemi di cose? Solo la componentistica è da paura. C'hanno le tensioni di 7000 watt per alimentare le valvole, 7000 volt, e condensatori di non so da quanto cavolo sono, da 8000 da 8 kV, da paura dei diodi spaventosi, resistenze non ne parliamo per fare questa. Hanno costruito dei fusibili, cose mai viste, infatti non avevo mai visto una cosa del genere costruita per uso amatoriale. Trasmettitori grossi anche da 500.000 watt li ho visti, ma mai vista una cosa così autocostruita, è una cosa spettacolare. Dura 1 ora e 15 minuti il video, se vuoi te lo mando, mi ricordi. Roberto, scusa se lo dico ad Antonio, però ti devo fare una bassa, ma non si può bassa, neanche si può alta. Bassa bassa? Bassa bassa, però non è neanche molto bassa. Ok, dai, ti aspetto, dai. Vai a... Ma si hanno messo le sonde della Bird da 25.000 watt, ne hanno messo due accoppiate, infatti solo per misurare la potenza, tu devi vedere, è una cosa spaventosa. I componenti che hanno utilizzato, mamma mia, infatti non so quanto la roba li hanno fatta arrivare, un fusibile l'hanno dovuto costruire loro su una barra in ceramica, con queste bobine, non so come cavolo le hanno calcolate, solo per, come protezione. Ma di lì devi stare attento anche vicino delle scariche elettriche che ti... Antonio. Buonasera. Che si dice? Oggi eravamo di Zeminata, quindi ho entrato dal giardino qua. Di cosa stiamo parlando non lo so, comunque sì, sto lavorando. No, anzi, ho tardato per via del Covid, non perché non ce n'era. Sì, Anto, sì, vabbè, come tutti, dai, ci hanno fermato. Adesso siamo di nuovo all'attacco. Oddio, un ristorante è una parola grande, avevo una trattoria, sì. Sì, è sempre nostra, adesso ci sta lavorando il mio cugino, però è affitto lui, capito? Ricos, rientro. Ciao Tino. Vabbè Fabri. Allora, tutto a posto, sì. Roberto gli ha squillato la sirena, Mombo sta parlando e niente. No, sta facendo, mi manca la vista, ma non me l'ha mai capitato, mi stava mancando su questa radio che ho terminato. Ogni tanto la non trasmetteva, quindi non mi è mai capitato, sto facendo digitare e quando faceva battimento è normale il battimento, comunque mi bloccava anche in trasmissione, non me l'ha mai capitato. Va bene, sei troppo amplificato per me, però già va bene, è comprensibile la radio. Se vuoi puoi abbassare leggermente, perché ti raccogli anche un po' di ventole e quant'altro che è in giro. Io l'ho abbassato un pochettino, forse va meglio. Così così, ancora appena puoi. E vabbè, però lo lascio così, dai, le ventole. Tanto adesso sto cambiando radio, dai, rimetto l'altro e lo regolo, per questo lo sto togliendo che va bene. L'hai visto quello che avevo fatto, sì. Nel video? Adesso te lo mando, il video. Fai. Va bene. Finito giù, sì. Tanto non sono sceso sabato perché poi c'era solo da fare le ultime cose. Io perlomeno non è che ce l'ho uno piccolino nel baracchino, un 747, ma qua non ne ho, qua è tutto regolare. Aspetta che riprendo io un attimino che la sto scollegando, eh. Allora guarda un attimino, sto facendo vedere un video a Muscolino, guarda. Aspetta, più muscoli di te, guarda come fa, eh. 10, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, da delle belle sberle, vero? Dai, ti mando il video. Aspetta che prendo un telefono, mi auto. Allora, sto scollegando questa un attimino, Va bene, Fabri, va bene. Ma quella è la mia, Va bene, Ora. Eccomi che rientro. Vediamo qua, anche questa già spinge bene, però l'altra spinge di più, Sì, ho visto. Aspetta un attimino, faccio una cosa in questa. positivo sono, vabbè, guarda ora, 1, 2, 3 prove tecniche, va. E alla grande, da 15 a 20 scarso. Forse, aspetta, faccio una prova invece io, sarà, forse quella, lì era più alto. No, ma anche quella un po' di più, ma anche questa già spinge bene, però l'altra è lì sul processore, l'avevo giocato. Sì, bene, bene. Vabbè, qua io non vado oltre la soglia dei 70-80, purtroppo è così, vabbè, comunque ci accontentiamo. Ascolta, e questa come ti sembra in confronto all'altra? Guarda, l'altra mi sembrava, adesso ho passato il volo, però mi sembrava più forte di radio. Aspetta, però qua le vedi, è tutto, l'ho sollevato un po', come ti sembra? No, dovrei fare il confronto da una all'altra in diretta, perché mi sono dovuto allontanare, quindi ho abbassato il volume e adesso non ho più l'orecchio dell'altra, hai capito? Ma viene male fare questo, caspita quanto spiego, l'altro è impressionante in confronto a questa. Adesso non so, ho intenzione di, non c'ho spazio qua, anche l'altra spinge un sacco, ma è proprio il processore quella là, questa è, lì c'è il processore tirato, capito, in confronto. No, ma adesso hai attaccato qualche cosa, però, perché all'ultimo hai aumentato il radio, Sì, no, ho tolto e rimesso il processore. Aspetta che faccio una prova, va. Vai, fatti la chiacchierata che me la tiro fuori un attimino. Adesso sembra simile a quella che poc'anzi avevi con il processore inserito. Aspetta un attimino che provo a vedere se riesco a farla spingere come l'altra. Maledetto. Allora, vai, alto. È così, è così. Sono andato, anche perché avevo cose da fare, poi una cosa o l'altra oggi ho fatto le cose di casa, perché sennò poi si accavallo uno con l'altro e non fa niente, quindi oggi qua. E così bisogna fare anche quello, perché sennò poi vai a